parentesi, perché è allo stesso tempo un saluto e una speranza. È intitolata Né prima né dopo né prima. Il sogno femminista ricompare prepotentemente nel nostro immaginario e nei nostri desideri. Il femminismo oggi comincia da questa capacità di costituirsi autonomamente, che abolisce lo stato di cose presenti. Comincia dall'esistere come afflato nella facoltà comune di produrre, curarsi, coltivare, nella condivisione dei saperi, della poesia, della musica, delle immagini, nella forza di resistere alla normalizzazione, nell'intelligenza dell'illegalità e del sabotaggio, nella comunicazione tra avanguardie e movimenti. Perché il patriarcato non è altro che l'espropriazione di queste capacità, è il trionfo del possesso, del denaro, della merce, della meritocrazia, è l'illusionismo dei diritti, è la censura e la manipolazione della nostra storia. Non si tratta tanto di sconfiggere dei soggetti, quanto l'ambiente costituito dai dispositivi semantici, discorsivi di controllo che rendono possibile il perpetuarsi del patriarcato e del capitalismo. Da qui l'inconsistenza dell'appello alla società civile, alla convivenza, alle quote rosa, tutte tese a rimuovere la rivolta contro lo stato delle cose. Rompere tutto ciò significa rifiutare le forme di relazione sociale ed economica che riproducono incessantemente la società in cui viene imprigionata la nostra esistenza. La socialdemocrazia è stata ed è il principale ostacolo alla rottura di quel rapporto e di quelle relazioni. Ancora oggi è necessario riaffermare con forza l'alterità di ogni movimento femminista a qualsiasi ipotesi di gestione di questa società. Una gestione che si risolve nel rendere la società stessa a tutti i suoi livelli più devastante ed alienata. A questo dobbiamo opporre l'autonoma produzione di soggettività del femminismo. Dobbiamo smascherare la socialdemocrazia che separa continuamente il pensiero dall'azione, la forma dalla vita, sciogliendo tutto nell'impotenza che fa rientrare così a pieno titolo la legittimazione dello stato presente delle cose. Il femminismo non viene dopo né prima, bensì consiste in un processo che si svolge dentro la nostra attualità. Circola a seconda delle situazioni in cui è in grado di vivere. Mai più separare l'oggetto dal suo uso, la parola dal suo potere, il pensiero dall'azione. Femminismo significa la diffusione ovunque di pratiche che lo sperimentino, in una condivisione che rompa i necrofori dispositivi che si oppongono alla sua realizzazione. Non vi è nessun bene comune separato dall'uso comune dei mondi che abitano i corpi. Finché saremo subalterni alle logiche della legalità, della norma, del politicamente corretto, del realistico, non si riuscirà a intravedere la fine della società, della civiltà patriarcale. Ogni qualvolta invece saremo in grado di deporre questi assunti, quella fine sarà più prossima. Allora, abbiamo aperto con una frase del Maggio francese e chiudiamo e vi salutiamo con due scritte che abbiamo trovato un paio d'anni fa sui muri di Lisbona e che ci dicono perché stasera noi, come compagne, come coordinamenta, eravamo in piazza. Una ci dice: o sol quando nasce e para todos, il sole quando nasce è per tutti. E l'altra: a vida gnao e para scusatemi il portoghese, è impossibile, ma cercherò di leggerlo. A vida não é para ser vista, é para ser vivida. La vita non è fatta per essere vista, è fatta per essere vissuta. Ciao, al prossimo mercoledì. Vi aspettiamo tutte quelle che possono venire, tutte quelle che possono essere con noi. Lunedì dall'una in poi a via Renula, lunedì 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a via Renula, contro la legalità e contro la norma. E potete trovare tutto questo sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org oppure scriverci a coordinamenta@autistica.org. E questa è sempre la trasmissione I nomi delle cose, e sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao, alla prossima. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. headlights are on. Qua Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia in leggero ritardo per lo svolgersi del palinsesto, un po' spostato in avanti. Inizia un po' in ritardo, prove tecniche di trasmissione. 0649 1750, il contatto telefonico di Radio Onda Rossa, il cui sito internet è www.ondarossa.info, per ascoltarci attraverso lo streaming e quindi con un computer. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. E per quanto concerne questo spazio, disorder@ondarossa.info. Oggi è mercoledì 20 novembre 2013 e il palinsesto prevede intorno alle 22.30 e qualche minuto in più magari. 25 o'clock che concluderà questa giornata di mobilitazione. Andiamo a salutare il buon Alexis da Lima, capitale del Perù, in probabile ascolto. E andiamo anche a salutare il buon Fantasma, che tra circa un'ora, un quarto, un'ora e mezza insieme al buon professor Fefo, condurrà 25 o'clock. Si chiamano Boards of Canada, ultimo lavoro Tomorrow's Harvest, e quindi dopo tanti tanti anni ritornano ad incidere un qualcosa questo duo proveniente dalla Scozia. Si chiama Sundown questa traccia, alla quale seguirà Count to Dust e Semena Mertivik. Thank you. comunque un ottimo ritorno per quanto riguarda Boards of Canada. L'ultimo album si chiama Tomorrow's Harvest. Dopo molti molti anni di silenzio finalmente sono ritornati. Un gruppo che sin dagli inizi della carriera ha inciso per la Warp di Sheffield, un'etichetta che non ci sarebbe bisogno di dirlo, è stata nota in passato soprattutto per aver stampato i lavori di Aphex Twin, Outacre e altri artisti sempre dell'area elettronica un po' tra l'IDM e l'ambient, ma anche tech step e dintorni. Qualcuno si ricorderà di Muslingos, un artista inglese morto circa 15 anni fa, che stampò moltissimi dischi nei suoi 10 più anni di carriera. Dischi che erano un po' sospesi tra atmosfere tribale, industrial e soprattutto un forte legame con il mondo arabo e in primis con la Palestina. Ebbene, un artista del calibro di Monolith gli ha tributato un tributo, per la precisione Monolith e Siamgda, questa traccia che porta proprio il nome di Tribute to Muslim Ghosts. Thank you. un ottimo lavoro alla batteria che caratterizza questi Kennenschläger, ultrasotterraneo progetto tedesco. Un ibrido stranissimo tra atmosfere chiaramente industrial, ma con un substrato decisamente votato al jazz. E questo, praticamente questo assolo di batteria che è durato 5 minuti, accompagnato poi dal contrabbasso, elementi tipici di una certa cultura jazz. Kennenschläger con questa Kilimanjaro. Una traccia questa gradita dal nostro amico Gianni in ascolto, un grosso abbraccio anche a lui. E ci andiamo ad ascoltare un personaggio che lo stesso Gianni conosce, si chiama Sunblasting, al secolo Luca Torasso, proveniente da Torino, qui al suo terzo lavoro dal nome Dread, un doppio CD. Questa sera andiamo a conoscere il CD caratterizzato da svariati remix di artisti abbastanza noti per quanto riguarda la scena rhythmic noise. Questa sera cominciamo con Weber's Theory, masterizzato da Guysform, artista proveniente dalla Spagna, e Brainwashers invece in questo caso remixato da Cervello Elettronico, un artista italo-americano. We'll be right back. Ultimo lavoro per Sandblasting, il nostro Luca Torasso, ripeto, proveniente da Torino, in questo terzo album che esce come gli altri per la Rust Blade, etichetta fondata da Stefano Rossello alias Bantir. Un interessantissimo lavoro questo Dread, il cui valore viene anche accentuato da questo secondo CD pieno zeppo di succosissimi remix, tra i quali questo Weber's Theory di Guys Form, artista spagnolo della Ence Productions, e l'italo-americano Cervello Elettronico che ha remixato questa Brainwashers. Sandblasting, credo tra le migliori menti del rhythmic noise italiano. E E adesso ci andiamo in Germania. Andiamo in Germania per andarci ad ascoltare l'ultimo EP per i tedeschi Aus Arafna, per quanto ci riguarda un vero e proprio punto di riferimento per una scena che per quanto riguarda Aus Arafna ormai è un po' a metà tra le vecchie pulsioni industriali e la severissima minimal wave che ultimamente sono riusciti a concepire. Questo quattro tracce si chiama All I Can Give, e ci ascoltiamo Pain Loves Pain e la seconda traccia dal nome Jiva. Thank you. All I Can Give, questo ultimo lavoro su vinile in quattro pezzi. Speriamo prodromo di un prossimo lavoro per gli Hausaraffna. A dir vero, abbastanza prolifici negli ultimi tempi con un paio di album. Abbastanza misteriosi questi due personaggi. Lei ha... non sappiamo se il vero nome potrebbe essere per esempio Calista Römer o Isabel Montes, mentre lui Karl Tockveller, ma si fa anche chiamare Thames Kadenbach. Fatto sta che aspetteremo con desiderio ulteriore a gesta di per questo duo tedesco. Invece adesso ci andiamo ad ascoltare una provvidenziale ristampa per quanto riguarda l'italiano Vestigial, e quindi parleremo di Dark Ambient, molto molto ispirato al ben più famoso Rise on Death svedese della scuola Cold Meat Industry. Vestigial ha ristampato quest'anno due vecchi lavori del 2008 e del 2006 e del 2007, rispettivamente Solar e Eon. E noi da Solar ci andiamo ad ascoltare la traccia che lo va ad aprire, dal nome Last Extinction Prayer. Everything left so quiet, I carry back.